vabbè, ho fatto tanti anni giù a Fiume Santo, va? E adesso invece sono già 23 anni qua con la provincia, faremo attenzione in piazza elettrici tutte le scuole superiori. Andare, vabbè. Io invece sto ancora battagliando, oggi abbiamo chiuso tanti dai, perché effettivamente questa emergenza che c'è, insomma, sta diventando un pochino preoccupante. Grazie a Dio il lavoro sta girando bene, solo che per causa maggiore dobbiamo fermarci anche noi. Ma guarda, io sto pensando a tutte, addirittura ho pensato che sto cazzo di coronavirus, senz'altro. E non ho trovato nessuna testa, sarà l'ISIS che ha buttato qualcosa per una guerra batteriologica. Pensiamo come vogliamo, però chi ci pensa siamo sempre noi. Anche io la mia idea l'ho avuta, credo che l'abbiamo fatta apposta, poi sono cose che ognuno pensa, bisogna vedere, la verità la sono solo loro. Ma comunque Dio, se devo uscire sono stesso, non è forte nulla. Giustamente sì, stavano a fare la spesa, se me ne frega. Avevo comprato le cazzate, però io sto uscendo a fare la spesa. Fino adesso non mi hanno fermato, grazie a Dio. Traffico quasi zero comunque. Poca gente e usciamo proprio contatta. Sappiamo proprio dopo guerra, guarda. Cioè copri poco, un casino. Vabbè, comunque sto bene in campagna perché ho tanto di cose da fare, però se i negozi, qualche negozio hanno aperto, ti giuro, avrei comprato tante quella roba, avrei iniziato a fare, avrei lavorato molto di più qua in campagna, e invece i negozi sono chiusi e mi tocca girare il pollice, quello che mi dà fastidio, non per altro. Sì, vabbè, quello anche io. No, io domani esco, faccio un po' di provvista e poi roba da fare qua a casa ce n'è, quindi mi do un po' la campagna, pulizia alberi, motozappo, c'è da piantare, da fare, quindi bene o male già c'è da fare. Mi dispiace che devo uscire più volte a fare delle provviste, diciamo, dal resto. Insomma, ci impegniamo la giornata per quello, dai. A me non è che mi pesa più di tanto, mi pesa soltanto che faccio materiale per quello che ho idea in testa io di fare, capito? Ma del resto già mi sta passando lo stesso, non c'è problema. Come provincia ne ho anche troppo, guarda. Io sono sicuro quando tutto torna alla normalità, io posso campare ancora con le provincie, con le buoni a occhi chiusi, 3 settimane ancora. Ehi, vabbè, tu mi guarda che non ha sbagliato, se tutti la pensano come dovrebbero pensare, il virus secondo me si ferma, perché c'è questo picco adesso, però ognuno la pensa come vuole, c'è chi esce per la paranoia, c'è chi esce perché cazzo, ha bisogno di fare le provviste, c'è chi esce perché ha bisogno di medicinale e quant'altro, quindi la gente è un po' più fermata, non è che, però già chiudere i centri commerciali non è fatto da poco, anzi è una cosa grave. Non so cosa ti serve, che materiale ti serve, roba di edilizia. Ma io ho visto qualche circolo aperto, centro storico, a corso Vittorio Emanuele, ho detto cacchio, gente tranquillamente uscendo, fumando, e poi io sono macchina, sono passato, e poi ho saputo che avevamo già denunciato quel circolo e continua a aprire, e così bisogna, e anche la gente, ho visto extracomunitari a passeggio, e non ho capito, la legge vuole per tutti o no, ho inteso diverso da noi. No, io bene o male stavo facendo il lavoro lì all'entrata della Croce, stavamo facendo marciapiede, uno stop che abbiamo fatto per Abbanoa, e rivedevo passare. Oggi però in particolare è passata una pattuglia in borghese e ha fermato dei ragazzini in bicicletta proprio davanti a noi, gli hanno chiesto giusto cosa stavano facendo, dove stavano andando e dove abitavano, e li hanno rispediti al loro quartiere, però non gli hanno fatto niente. Parecchie pattuglie, anche di Apollo che sono stato diciamo stamane, e due pattuglie hanno fermato la destra, proprio uscita la Bretellina, non mi hanno fermato la destra, poi polizia municipale, ma mi hanno detto una cosa, e me l'hanno confermato anche un'altra persona, che hanno visto sbarcare i carri armati americani, ma cosa sta succedendo? Ah, questo lo ignoro. Non so, ma lì a Porto Torres. Non a Porto Torres, non mi ricordo dove mi hanno detto che dovevo sbarcare. Dopo lo ricordo. La prima cosa, eppure non è quello. Non dico la bugia perché non lo prendo in conto. Non penso che sia la Maddalena, perché non credo che ci... Tra l'altro, quando ho finito i miei tagli, io l'hanno... è durato ancora 4-5 anni e poi l'hanno chiusa. Ma no, io penso fuori, o Taranto, dove cavolo, Genova, non lo so, guarda, sinceramente, non in Sardegna, quello no. Boh, mi avessi detto invece, non si capisce anch'io, ma sicuramente al telegiornale è una cosa del genere. Boh, io no, io non l'ho visto. Ma io auguro soltanto che passa quanto prima e questi poveracci vecchietti che sono malati cronici, poveri, non ce la fanno a sopportare questo virus. E auguro sì che finisca quanto prima, non c'è messo in fede fino a 25 marzo, salvo complicazioni, perché se la cosa dura ci metterà nel cazzo di questione anche a noi, e questo mi dà molto fastidio. Ah, io adesso non so, ne stiamo parlando oggi, perché non so come funziona, tu però già eri nel ramo, qualcosa più di me ne sai. Dal momento che c'è questa emergenza qua, è la ditta stessa che deve mettere in integrazione, giusto? Certo, è stato come viene risarcito dallo Stato, poi ci sono parecchi miliardi. Allora, noi abbiamo la possibilità che ci facciano messo in ferie, ma l'ha fatto con una tattica molto furba, che se volevo mettere malattie, la mettevo in cura a lui. Perché automaticamente ti, per recuperare tutti i giorni di ferie, io devo lavorare 4 mesi. Tu pensi siamo a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, insomma, noi diciamo del periodo d'estate in ferie ce la becchiamo in quel posto e in ferie non possiamo andarci e dobbiamo continuare a lavorare. Però non ha capito che io sono talmente più furbo di lui, perché voglio, mi metto 2-3 settimane, un mese in malattia, lo posso fare, perché ho delle patologie, sto vedendo anche la pensione per il cuore, quindi e gliela metto in quel paese. Non me ne fotte nulla, ma mi dà fastidio soprattutto che ha fatto, anziché mettere cassa integrazione, tranquillamente ci ha messo in fine, con le figlie di notte, cioè poi arriviamo a zero e ciccia. Adesso non so come funziona, ma dal momento che ti mette in integrazione, è lui che anticipa o è l'INPS che paga, cioè come funziona? Perché adesso per quanto riguarda la malattia, so che i primi 3 giorni li paga il datore di lavoro, dopodiché subentra l'INPS, ma l'integrazione come funziona invece? Allora, anticipa tutta l'azienda, anche come la malattia. La malattia per i 3 giorni sono al 100% e dopo il 21esimo giorno di malattia, se continuo, sono al 100%. Perché se tu ne fai 10-15 giorni sei fottuto, perché ti pagano la cazzata. Quindi tutto quanto l'azienda, poi se questo governo ha messo giustamente 20 miliardi per le imprese, piccole imprese, grandi imprese, quello che è l'altro, per le persone che non si può lavorare perché noi lavoriamo nelle scuole, automaticamente anticipano e poi verrà dato dallo Stato, dal governo, ovvero dalla regione dai comuni e province, eccetera, eccetera. Ma si svolge così. Bene, ma questo è un... cioè, ammetti il caso, a partire da oggi, per quanto riguarda il mio caso, com'è, mensilmente la paga? Ma guarda, allora, noi siamo pagati mensile, sì, non lo so voi come siete pagati. Beh, il datore di lavoro a me ha patuito con me, lui faceva mensilmente, però a me in particolare, perché ci conosciamo tanti anni, mi dà per dire il 15 la paga e il 30 la conto. Scusa un secondo, 2 minuti che la libero subito. Vai, io sono qua. Ventino, sono di nuovo qua. Cosa con me? E quindi niente, ripeto, anche la malattia viene pagata sempre dall'azienda, anticipata. Anche l'infortunio, però ci sono certe aziende che soldi non te ne danno, non anticipo. Se hanno siglato l'articolo 70, allora anticipa l'azienda, se va l'infortunio. Se no devi aspettare che l'infortunio ti dà gli acconti e il saldo finale, quando te lo darà, però giustamente. Ma oggi che oggi la maggior parte sono tutti quanti con l'articolo 70, quindi anticipo tutta l'azienda, sia l'infortunio che la malattia, che la cassa integrazione, capito? Ah, quindi l'integrazione sarà al datore di lavoro praticamente anticipare, poi sarà lui a fare richiesta all'INPS. E certo, a noi per esempio ci ha messo in cassa integrazione quando c'era un bel sciopero che ti ho preso al tetto della provincia, capito? Quindi c'è un po' di casino, sono stati roba di 10-12 giorni o 15, come ricordo, per esempio. E quindi ce l'ho messo pure in cassa integrazione, perché dallo sciopero puoi avere qualche cosa per mangiare, nulla, quindi è un casino. E ce l'ho messo un po' di cassa integrazione. Andare, va bene, buon sapersi. No, vabbè, oggi ne abbiamo parlato, ma vagamente, quindi per illuminarmi un pochino. Bene, bene, bene. Comunque, dimmi di te, come vai? Ne sei uscito nuovamente a Pizzu, come si suol dire. L'hai spolverato, l'hai tutto fuori dal cassetto questo baracchino. Guarda, tu non ci crederai, c'ho sempre il famoso faccio 2030, 40 canali, per carità. Niente, allora, ti dico, avevo un po' di ansia. Il dottore mi ha detto, non ti do niente, te lo devi curare tu stesso, questa ansia che c'hai. E quindi come faccio a curartela io? E mi ha detto, guarda, ti scegli un qualcosa che ti piace. Dopo che sei stufo ti scegli un altro ubi, e poi un altro ancora, e un altro ancora. Insomma, diciamo che baracchino mollato, mi sono dato un miliardo, sono arrivato al mio, vince due medaglie d'oro, mollato, e alla pesca. La pesca poi mi sono stufato e mi sono dato alla moto. La moto c'è un moto raduni, anni e anni, poi mi sono stufato e mi sono messo con internet. Poi con internet adesso ho sfogliato di nuovo il baracchino e adesso c'è qualche duro. Insomma, ti dirò, mi sono guarito da solo senza prendere né pastiglie né niente. E ringrazio il dottore che la buona anima perché non c'è più. Meglio così, è una bella cosa, con una buona volontà poi ancora meglio, meglio di prendere pasticche e quant'altro. Poi vabbè, giustamente, grazie a Dio sei stato fortunato, che è un lavoro che te lo permette, nel senso che ti hanno andato avanti, c'è quello che magari non ha la possibilità o non ha l'opportunità di lavorare, quindi non ha uno stipendio regolare per poter fare ciò che le piace, quindi si deve rassegnare un pochino. Ma guarda, non per vantarmi, io a parte il lavoro prendo anche una pensione per il cuore che è un suo problema, ma non è difeso dalla sigaretta, ma io sono già 5 anni che non fumo più, da quando ho avuto un problema che mi sono veramente spaventato. E dico una cosa, tra stipendio e pensione che prendo arrivo sui 2.100 euro. Io sono tranquillo. Ho 40 anni contributi, all'altro anno me ne vado in pensione. E non solo con la pensione di vecchiaia, e mi viene anche incorporata questa pensione che mi stanno dando. E automaticamente mi viene stesso quasi 2.000 euro praticamente in pensione. E posso dire, non è meno male, perché avrei preferito non avere niente, io sto prendendo pastiglie, io prendo 10 pastiglie al giorno. Comunque ho migliorato al 100%, perché le visite in cardiologia le faccio spesso volentieri. Adesso non più, perché è stato incasinato pure la cardiologia, e tutta quanta intragliata, questo è un virus, cavolo. Dai, speriamo bene. Va bene, Tony, io mi devo comprare la radio, che siamo per fare carica, quindi devo dare una mano. Comunque mi ha fatto piacere, ogni tanto entra, già avremo modo di sentirci più spesso. Ti saluto, buonanotte, buon tutto, se coincide più tardi, se no a domani. Ciao Tony, riprendi tu. Ok, d'accordo, ti mi ha fatto piacere anche a me, infatti ascoltavo l'inizio, diceva Tino, ma era stata fino a un punto, mi ha fatto un immenso piacere, sì, veramente, dopo tanti anni fa piacere sempre trovare i miei amici. Ok, ti auguro anche a te il buon carica batteria e buon tutto, non lo so se rientro più tardi, ma è difficile, quando non ti puoi pure in addormento, domani ti do un caffè, so fare un po' di cose, ma non fai. Di nuovo, buon cuore ti, alle prossime, sta bene, ciao Tino, saluto le Borea. Grazie altrettanto, ciao Tony, ciao. Ciao.